Sono le 16:08 minuti, è giovedì 29 aprile 2010 e nonostante tutto, nonostante le magliette, i sogni, le ossessioni e gli innaffiatoi, siamo ancora qui. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Vendo Tutto e oggi vi racconto la seconda parte della storia che ho cominciato a raccontarvi ieri. Sto raccontandovi la storia di un progetto che ho avuto in testa che è miseramente fallito, come ho già raccontato ieri, ma come concluderò anche oggi. Di fatto ogni progetto, spesso e volentieri i progetti, come in questo caso, hanno a che fare con un viaggio. Nei viaggi, soprattutto quelli meno organizzati, che poi non è vero, anche in quelli organizzati capita, però quelli meno organizzati, come dice Tiziano Bonini, spesso e volentieri si cerca di andare in una direzione e poi si creano delle smagliature. Prima Laura ha usato esattamente questa parola, però insegna all'università mica per niente. Si creano delle smagliature entro le quali succedono delle cose che non ti aspetti e soprattutto incontri delle persone che non ti aspetti. Ecco perché oggi, raccontandovi dell'incontro che ho fatto quell'anno in Romania mentre seguivo i Croque-Mule che cercavano di imparare le musiche dell'Europa orientale, io cercavo di fare un documentario su di loro, ho incontrato questa persona, un signore anziano che suonava il violino in una maniera meravigliosa. 800240024, perché oggi voglio sentire solo racconti di incontri avvenuti sui luoghi dei vostri viaggi. Ripeto, anche viaggi organizzati, perché non è detto che non si incontrino persone interessanti nei posti in cui si va a fare delle vacanze, a fare dei viaggi, se sono organizzati. Se invece di solito non sono organizzati, ripeto, è semplicemente più facile perché ci si inciampa senza prevederlo. Prima, parlando degli incontri, Tiziano raccontava che l'estate scorsa nel deserto della Bassa California in Messico ha incontrato mentre era in viaggio con un suo amico, ha incontrato un tizio che viveva ad un'ora di macchina a un giorno di macchina da tutto, davanti al mare. Viveva con un cane, pescava, hanno bevuto tequila fino a notte fonda e la mattina dopo, quando si sono rimessi in macchina, lui gli ha dato una benedizione in spagnolo che suonava tipo col favore di Dio riuscirete a tornare a casa. Però anche Laura Faggin, che oltre a essere una donnina tutta d'un pezzo, la sua caratteristica principale è quella di avere amici che hanno fatto tutto, che per cui se tu le dici una cosa lei ti dice: ah, io sì, ho un amico. No, non parla proprio così, però diciamo con l'accento veneto un po' intanto viene fuori. Ha un amico, non so se è vero, però guarda Laura, facciamo così, se non è vero mi piace ancora di più, che era in viaggio in Tibet ed è stato rapito da dei signori tibetani, così è un incontro a modo suo anche questo, che gli hanno chiesto un riscatto. Il riscatto era tipo $30, lui chiaramente ha pagato e loro gli hanno rilasciato una ricevuta a modo di, così se per caso ti dovessero sequestrare di nuovo dici: guarda, è un po' come quando viene il signore con le rose e tu ne compri una e quello dopo dici: guardi, per piacere, ho già pagato.